Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Sono le 16:34 minuti, Luca Tremola dal microfono. Oggi puntata ancora una volta dedicata ai www worker, a coloro che fuggono ma anche a coloro che restano, a coloro che cercano nuove strade per nuovi lavori, che si inventano il lavoro, che si inventano una nuova qualità della vita. Ne parliamo con l'artefice, il fautore Gianpaolo Colletti. Buongiorno. Buongiorno Luca. Allora, tra l'altro ieri è stata giornatona, nel senso che hai seguito questo, com'è che lo possiamo dire, hai festeggiato il compleanno di Rita Levi di Montalcini con una grandissima diretta. È una diretta trasmessa su 252, le abbiamo contate oggi, micro web TV, videoblog, micromedia iperlocali e poi tanti altri partner che hanno aderito all'iniziativa e poi l'hanno rimbalzata anche sul satellite. Cioè, tu ci pensi, mentre tu festeggiavi Rita Levi di Montalcini, si consumava la rottura Berlusconi-Fini, io ero a Perugia al Festival Internazionale del Giornalismo a parlare di telefonia. Saranno coincidenze? Mamma mia, mamma mia. Adesso sentiamo le news. È in arrivo il Bluetooth versione 4.0. Entro la fine di giugno, infatti, verranno rilasciate le specifiche definitive per il nuovo standard di collegamento senza fili Bluetooth nella versione 4.0. Secondo il gruppo di aziende che promuove e gestisce lo standard, il nuovo Bluetooth offrirà vantaggi notevoli. Ci saranno infatti consumi di energia sensibilmente inferiori a quelli attuali e invece prestazioni superiori nel trasferimento dati. Google prepara la stampa dalla nuvola. Il sistema operativo presentato da Google la scorsa estate, Chrome OS, sarà costituito principalmente da applicazioni web visibili in un browser. E adesso si scopre che il computer su cui verrà installato non avrà neanche bisogno del software per gestire la stampante. Google ha infatti studiato un sistema che permette l'uso delle stampanti direttamente tramite internet. La soluzione si chiama Google Cloud Print, permetterà a tutti i computer collegati a Google e autorizzati di usare le stampanti della rete locale senza bisogno di gestirne le impostazioni o di installare nessun software. Negli Stati Uniti, più di metà degli acquirenti dell'iPad di Apple sono utenti Windows. Secondo una ricerca condotta dal gruppo Citica, che si occupa di pubblicità sul web, il 64% degli oltre 500.000 iPad venduti nella prima settimana sono stati portati a casa da utenti del sistema operativo di Bill Gates. Adesso quello che preoccupa Microsoft è il dubbio. Con iPad tra le mani, non è che adesso faranno a meno di Windows? Allora, le notizie erano gentilmente offerte questa volta da Antonio Dini, ma adesso raccontiamone un po' queste storie dei www workers. Gianpaolo, se sei d'accordo, partirei con Antonio Lodigiani, che tu mi scrivi nella scheda da Norvegia. Dico anche bene. Se poi è molto itinerante, perché questi www workers dell'altro mondo sono in un paese ma poi bazzicano in tanti posti diversi. Vabbè, prima sentiamo chi è Giorgio Lodigiani. Ieri era a Bruxelles, in una commissione del Parlamento europeo. Oggi a Monaco, domani in viaggio per la Norvegia. Dopodomani, chissà. La storia di Giorgio Lodigiani, 54enne businessman milanese, è di un WW worker in giro per il mondo. Oggi il suo progetto si chiama L'Albero della Luce Sostenibile ed è legato al suo personale brand ecoagriworld.eu. Lo fa con zero dipendenti e lavorando con aziende di svariati paesi. Fino a 17 anni fa, Giorgio era amministratore delegato di una multinazionale industriale quotata in borsa. Poi si è messo in proprio e ora benedice quella straordinaria opportunità di diventare WW worker. Allora, sempre in viaggio, vulcano permettendo, immagino, Lodigiani. Non ci sono dubbi, infatti questa settimana sono qui con 2 giorni di vita in più. Ah, in che senso? Nel senso che dovevo essere in Norvegia, invece mi sono trovato all'ultimo minuto 2 giorni da trascorrere senza l'intensità delle corse quotidiane. Ecco, allora, un attimino di respiro in più. Allora, 2 cose che vediamo dalla scheda, che leggiamo nella scheda. Insomma, il primo è il fatto che si è dato al sostenibile dopo un passato in borsa, quindi nel mondo finanziario. E poi che non ha assunto nessuno, cioè lavora da solo. preciso alcune informazioni. Io sono stato amministratore delegato della filiale italiana di un gruppo la cui casa madre era quotata in borsa a Zurigo. E per quanto riguarda il discorso di non assumere nessuno, è solo perché credo in una maniera incredibile che l'esperienza delle partite IVA sia molto più in linea con quello che succede nel mondo del lavoro all'estero nei confronti della tradizione italica, che solitamente parla solo italiano. Ieri sera, intanto che c'era l'evento sul compleanno di Rita Levi Montalcini, avevo coinvolto online un amico canadese in un grosso gruppo del Nord America, si è collegato e mi ha risposto: ma qui parlano solo in italiano, cosa ci capisco io? Dico: aspetta un attimo, che fra un po' smetteremo anche di parlare in latino. Tra l'altro questa cosa è successa anche in un certo senso al Festival Internazionale del Giornalismo che è in corso a Perugia, dove nonostante si chiami Festival Internazionale del Giornalismo, però ci sono molti stranieri, molti giornalisti stranieri, molte sessioni in inglese, però insomma ci sono anche, devo dire, la maggior parte sono in italiano, però insomma pian pianino ci stiamo avvicinando, no? Sì, è una delle cose che mi ha sconvolto di più la vita quando dai sogni sono passato alla realtà del lavorare online. Effettivamente quando tu vai a dormire ci sono gli altri che sono svegliati e iniziano la giornata, quindi oltre ad avere lingue diverse hanno 24 ore gli altri, quindi è tutta una dimensione del lavoro diversa, direi. Gianpaolo. Giorgio. L'aspetto particolare dei worker, perché in realtà è una dimensione globale, loro vivono confusi orari particolari e multilingua. Sì, questo è un dato positivo, insomma comunque tu non torneresti indietro, Lodigiani. Beh, direi che è l'unica cosa per competere e avere una chance per domani, quindi penso che sia normale nell'evoluzione e soprattutto ho smesso di illudermi circa le rivoluzioni. Cioè presumo che dai tempi della giungla naturale a quella di oggi, la giungla interattiva, giorno dopo giorno ciascuno conquista la sua giornata, ora dopo ora, e non c'è da illudersi che si possa rivoluzionare niente, bisogna partecipare quotidianamente con l'impegno all'evoluzione più sostenibile. E adesso ha saputo Obama sta ridisegnando finalmente le regole della borsa, insomma lei in un qualche modo proviene anche da quel mondo. Diciamo così che non ho certamente una dimensione a quel livello, mi limito a verificare che essere padre di tre figli e avere due figli sposati che mi faranno diventare nonno prossimamente due volte mi impone di preoccuparmi più di quello che ho da utilizzare io, che cosa lascerò a loro, e vorrei fare qualcosa di più. Un po' di amarezza c'è, però sì, no? Devo dire che passando attraverso i ministeri italiani al Parlamento europeo uno si rende conto che noi lì non ci siamo, e penso che invece quotidianamente il fatto che siamo particolarmente efficienti e costiamo pochissimo allo Stato dovremmo avere un ruolo, una posizione, una voce in capitolo molto superiore, e spero che chi come me è una partita IVA la pensi in maniera analoga, perché tutti i giorni siamo da soli e dobbiamo far fronte a tutto e non è così semplice. Anche il discorso dei dipendenti non è che non li voglio, semplicemente è difficilissimo trovare una maniera più efficiente che funzionare in maniera flessibile in questo momento. Proviamo a venire, penso. Proviamo a sentire anche un'altra storia. Siamo in collegamento con Gelsomina Russo. Buongiorno. Buon pomeriggio, la sua è una storia completamente diversa, anzi la sentiamo subito. Non solo WWworkers italiani all'estero, c'è anche chi ha scelto di far approdare l'estero in Italia. Gelsomina Russo e Andrea Coletti nella loro prima vita hanno fatto gli archeologi, poi hanno scelto di aprire una bottega online di giocattoli provenienti da ogni parte del mondo. Così su giocattolidalmondo.it è possibile acquistare giochi per bimbi di ogni età provenienti da Francia, Olanda, Stati Uniti, Thailandia. Sono in legno, in stoffa, sono soprattutto ecosostenibili e provenienti da piccole aziende certificate e che prevedono politiche sociali nei paesi di produzione. Si guadagna dai 1.000 ai 4.000 euro al mese. Com'è che è nata questa idea, Russo? Com'è nata? Lavorando come archeologi, quindi con un lavoro, per carità, bellissimo, ma assolutamente non riconosciuto dalla normativa il nostro paese. Non riconosciuto o non pagato? Cioè... Entrambe, noi non esistevamo, non esistiamo in quanto archeologi come figura professionale. E eravamo professionisti a partita IVA, con lavori a contratto, con responsabilità molto grosse in realtà, ma assolutamente non riconosciute. Ed era una lotta. Dopo, io ho 10 anni di lavoro ininterrotto alle spalle, il mio compagno 20 anni di lavoro, abbiamo deciso che non era più il caso di continuare così, e abbiamo deciso, di avendo comunque dei bambini, capendone di giocattoli, abbiamo deciso di provare questa nuova vita. Tra l'altro la piccola è nata 2 anni fa e non ho voluto mandarla al nido, quindi la scelta di un'attività tutta mia da gestire da casa, dal nostro, insomma. Perché voi fate tutto in casa, sostanzialmente è una sorta di commercio elettronico quello che vi siete andati a inventare. Cioè, in questo senso, diciamo che il fatto di essere archeologi non ha aiutato, cioè non c'entra nulla, insomma, non o no? C'entra, dipende, no, non c'entra nulla per quanto riguarda la materia che abbiamo deciso di scegliere, quindi commerciando giocattoli i nostri studi di provenienza non ci sono utili, però sicuramente la formazione letteraria che abbiamo avuto entrambi ci ha aiutato tanto nella strutturazione del sito, nella catalogazione. Scrivere i testi, l'organizzare, tutta l'organizzazione del sito, sicuramente siamo stati avvantaggiati rispetto a chi parte da un altro zero. Tipo di, okay. di formazione. Nova Lab 24. Ritorniamo, sono le 16.46, Giampaolo Colletti, sono storie diverse, sarà difficile trovare, questo succederà venerdì prossimo, un minimo comune. Beh, però stiamo capendo che in realtà molti dei workers che lavorano all'estero si dedicano a temi ambientali, di ecosostenibilità. L'altra cosa che vorrei ricordare invece è come fare anche a proporre la storia, così anche venerdì prossimo avremo magari un profilo ancora più completo. Noi su www.wwworkers.it, ce l'ho fatta a dirlo, raccogliamo queste storie di lavoratori che decidono di lasciare il posto fisso per mettersi in proprio, quindi cambiano vita, però tutto questo grazie a internet, grazie alle nuove tecnologie. Ecco, una domanda che però volevo fare direttamente a te. Infatti il fatto che tu mi proponga moltissime storie che hanno a che fare con l'ecosostenibilità, l'ambiente, che è molto in linea anche con la trasmissione, però mi sembra di capire, non è voluto. Non è voluto, arrivano molte di queste storie e arriva anche un modo di raccontare il proprio business in una maniera anche, possiamo dire, poetica, in una maniera romanzata. Questi portali che vengono messi in piedi, penso a Giocattoli dal Mondo, non vogliono soltanto vendere, vogliono proporre qualcosa di più. E ne abbiamo raccontate tante di storie di chi si reinventa un lavoro in internet e in qualche modo costruisce anche una storia. Ecco, ognuno di questi woworkers diventa un brand di se stesso. Allora, se non sbaglio, c'è una storia da Budapest, mi scrivi, di Gerardo Ghisleni. Sentiamola nella scheda. Ha deciso di lasciare il posto fisso come operatore in un'agenzia turistica per dedicarsi al teatro interattivo. Questa è la storia di Gerardo Ghisleni, 28enne di Milano, giovane impresario di Invito a cena con delitto, spettacolo itinerante nato 40 anni fa nei paesi anglosassoni e grazie a Gerardo divenuto business con un fatturato di 1,5 milioni di euro all'anno. All'avventura partecipano in Italia 48 attori. Da qualche mese il format è stato esportato a Budapest e verrà realizzato in tutta l'Europa dell'Est. Su www.invitoacenacondelitto.com tutte le notizie di questa avventura da WWWorker. Beh, questo però è un mestiere bellissimo. C'è Ghisleni? Pronto, buongiorno a tutti. Sì, questo Ciao. È un mestiere bellissimo, no? Sì. È un mestiere bellissimo, nel senso che è molto divertente e comunque anche il mondo del teatro e della ristorazione è tutta un'altra cosa. Però è durissimo. Cioè adesso l'idea è buona eccetera eccetera, però nel momento in cui si lascia qualcosa di rassicurante, di sicuro e si passa a quel mondo. Sicuro non lo so, oggi è tutto un punto di domanda, forse è meglio crearsi il proprio giardino e riuscire ad andare avanti in questa maniera oggigiorno. Però è un prodotto che in realtà non ci siamo inventati nulla, è sempre esistito. Grazie alle nuove tecnologie siamo riusciti a lanciarlo nel mercato nazionale italiano e adesso stiamo sviluppando tutto il mercato europeo. Perché da Budapest? Budapest in realtà nasce per una questione di partnership, grazie delle amicizie che abbiamo sviluppato in passato. Siamo partiti da lì perché avevamo un punto in comune con delle persone e poi abbiamo fatto un'analisi del posto, nel senso che questo tipo di prodotto esiste in piccola forma in altri paesi europei. Budapest non è mai non c'era, per cui siete andati giustamente laddove non c'era. Esatto. E poi Budapest è la prima tappa di una lunga serie di capitali europee che stiamo andando a toccare, però abbiamo potuto passare veramente da Budapest analizzando un po' il mercato dell'Ungheria. Allora, io ti ringrazio, stai lì perché il tempo sta correndo velocissimo e volevo andare in Brasile dove abbiamo Patrizia Celani. Buongiorno, anzi, che tempo fa? Buongiorno, qui il tempo è molto strano perché siamo all'autunno e quindi un giorno c'è caldo, l'altro giorno c'è freddo. Oggi particolarmente la giornata è molto grigia e sembra che si sta abbassando un po' la temperatura. Allora, ci racconti la sua storia perché diciamo è la storia che tutti vorremmo avere, nel senso che noi abbiamo questa idea del Brasile come grandi spiagge, sole e mare. Lei in questo momento, se non sbaglio, sta insegnando italiano. Sì, io già faccio questo lavoro di insegnante praticamente dal 96, da quando sono tornata dall'Italia, dove ho vissuto circa 3-4 anni, e faccio questo lavoro perché qui noi abbiamo anche una grande comunità italiana, quindi i professori di italiano sono benvenuti qui, no? È un lavoro molto benvenuto qui. Ma si sta bene? Sì, si sta bene, è una regione che si assomiglia molto all'Italia, perché il sud, ecco, spieghi dov'è esattamente lei. Spieghi dov'è esattamente lei, dove si trova in questo momento? Io mi trovo a Porto Alegre. Porto Alegre è la provincia principale del Rio Grande do Sul, che è la regione proprio sud alla fine del Brasile. Non abbiamo grande spiagge, niente, però... comunque si sta bene. Si sta bene, sì. Com'è che ci è arrivata? Allora, mio papà è nato a Roma e poi dopo la guerra aveva 19 anni, non sapendo cosa fare, lì ha avuto una proposta da un prete italiano che lavorava, che stava qui in Brasile, in una piccola città del Rio Grande do Sul. Lui è venuto, si è trovato bene, si è fatto famiglia e è rimasto qua. È andata bene alla fine della fiera. Ma sicuramente è andato bene perché in Italia c'era la crisi e la situazione era complicata, almeno qui lui si è trovato un lavoro, un mestiere che gli piaceva e anche noi, diciamo, anche se noi amiamo l'Italia, io amo l'Italia e avrei voluto molto crescere lì, vivere lì. Però insomma è andata che sta a Porto Alegre, va bene. A Porto Alegre, va bene. Che qui si sta bene è uguale. Diciamo che del Brasile è una delle migliori città per vivere. Grazie del consiglio, grazie Celani, grazie Giampaolo Colletti. Purtroppo il tempo è pochissimo. Noi però ci sentiremo con Giampaolo Colletti venerdì prossimo, vero? Faremo un bilancio di queste storie di chi decide di lasciare il posto fisso per mettersi in proprio. Bilancione quindi venerdì prossimo. L'appuntamento per Nova Lab 24 è comunque lunedì sempre alle 16.30. Clicca linear.it ed entra nella tribù. Linear, assicurazioni in linea con te. Vi ha presentato Nova Lab 24.